Carboni, no? Se non erro, mi mette un po' l'ansia, devo dire la verità, perché poi trattasi di storie di tossicodipendenze, relazioni pericolose, insomma così. Forse, anche se non ricordo minimamente come fa la melodia, quindi me lo chiedere, preferisco quella di Vasco Rossi, che comunque anche lui ha tirato fuori una Silvia. Boschero, viene naturale in effetti continuamente interagire con te dicendo Silvia rimembri ancora, però non lo farò mai più, ecco. Infatti, perché allora dallo scorso settembre tu conduci su Radio 2 Moby Dick, quindi è inevitabile, scusami, partire da lì. Guarda, infatti, che poi tra l'altro molti ascoltatori mi hanno fatto pesare questa citazione incredibile della letteratura dello scorso secolo, insomma il Melville, però in realtà il motivo per cui ho deciso di chiamarlo Moby Dick non è tanto per rifarmi a questa apocalittica stupenda storia di morte, paura, forse redenzione o cosa, piuttosto perché Moby Dick è una canzone anche di una band molto famosa che sono i Led Zeppelin, nonché è la sigla del nostro programma. Dopodiché Moby Dick per me rappresenta una questa imponente balena bianca che se ne va in giro per il globo terracqueo a cercare magari nelle profondità marine più disperse, nella fossa delle Marianne, chissà dove, qualcosa, il plankton alternativo, cioè nel senso una materia che non stia in superficie. Dunque non solo la materia che stia in superficie, perché è vero che trattiamo anche musica popolare, il pop, la musica commerciale, però vogliamo anche scendere negli abissi, e chi meglio della balena bianca può arrivare a quelle profondità. Allora, siccome qua il nostro programma si chiama Il Libro Getto, tu hai dei libri nei quali ti getti a capofitto proprio per combattere i momenti di paturnie più nere o grigie adatte al mese novembre? Insomma, a me fa un po' di malinconia. Beh, ci sono, diciamo che a seconda del periodo ci sono certi libri, non c'è mai un solo libro dove mi rigetto nella speranza di trovare qualcosa di nuovo, perché non mi piace rileggere i libri. Però ultimamente devo dire che questo è un po' il momento dell'anno paturnioso, se mi passi il termine, perché comunque insomma c'è l'inverno, come dice Sting, è il momento in cui ci si, noi che abbiamo intervistato recentemente, in cui decidiamo un po' di venire in contatto, a contatto con i nostri fantasmi, no? Perché magari il buio che arriva presto nel giorno, eccetera. E allora sì, è vero, cerco una distrazione. Ultimamente mi affascina la letteratura anglosassone. Per tanti anni sono stata schiava dei nostri grandi, soprattutto Pasolini negli ultimi anni, in un rigurgito di coscienza civile che ho avuto. E invece ultimamente cose più leggere, Jonathan Coe, oddio, mi viene in mente Edward Bunker, che non è proprio leggerissimo, perché insomma è uno che parlava, purtroppo se n'è andato recentemente, di prigione, di malaffare, insomma dal punto di vista di uno che quella vita dissoluta l'aveva fatta. Un titolo, per esempio? Ma è di Bunker, aspetta, qual è l'ultima cosa che ho letto? Me l'ero segnata perché ne ho letti diversi. Sei preparatissima, Ho iniziato con Come una bestia feroce, chiaramente riferito a se stesso e insomma al suo protagonista, e ultimamente sto leggendo Educazione di una canaglia, che è praticamente la sua biografia. Lui è famoso per essere stato, tra l'altro, sdoganato da anche personaggi pop da morire del mondo del cinema. Ad esempio Tarantino si è completamente innamorato di lui, l'ha anche utilizzato all'interno di alcuni suoi film, perché chi più di lui ha coscienza dell'essere un fuorilegge, visto che lo è stato davvero, ha fatto la prigione, eccetera. Mi piace moltissimo questo suo modo di scrivere, perché è terribilmente feroce, però senza orpelli, nel senso assolutamente diretto e gelido. E nel momento non lo so perché ultimamente mi aiuta a uscire fuori dalla quotidianità. Senti, Sting è veramente tantrico? No, non ho avuto il coraggio di chiederglielo. Two for Paul and three for him that made us all. God bless the master of this house and the mistress also, and all the little children that round your table grow, the cattle in your stable, the dogs at your front door, and all that dwell within your gates will wish you 10 times more. Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake, an apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake, one for Peter, two for Paul, and three for him that made us all. And see what you can find. If the barrels are not empty, we'll hope that you'll be kind. We'll hope that you'll be kind with your apple and your pear. And we'll come no more a soul in till Christmas time next year. A soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake, an apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake, one for Peter, two for Paul, three for him that made us all. The streets are very dirty, my shoes are very thin, I have a little pocket to put a penny in. If you haven't got a penny, a halfpenny will do. If you haven't got a halfpenny, God bless you. A soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake, an apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake. nella dimora di Silvia Boschero, che non so come mai assomiglia sempre di più ad una redazione radiofonica, dove però tra l'altro si può comunque bere un caffè, ci sono dei pasticcini. Beh, alla fine la casa diventa la redazione diventa la casa, perché per cui la mia casa, la mia libreria è piena di libri musicali, è piena di dischi chiaramente, e la redazione è lo stesso, insomma è un continuo trasmigrare da un posto all'altro. Alla fine non si capisce bene, quando arrivi a casa non sai se guardarti, che so io, il DVD su John Fante, per dire un altro che mi piace moltissimo, oppure in redazione magari ti arriva l'ultima edizione di Chiedi alla Polvere, sempre di Fante, quindi non capisci più niente. Per questo è il bello del nostro mestiere, facciamo quello che ci piace e che faremo anche a casa, no? Recensire, ascoltare, guardare, leggere. Ho letto che hai scritto una biografia dedicata a, non so se lo pronuncio bene, Gilberto Gil. Brava, bravissima. Musicista, però anche vero ministro della cultura brasiliano. Noi non abbiamo ancora casi del genere, però sarebbe bello. Lo è stato, perché da un paio di anni ha smesso, non solo ministro della cultura, da rockstar, diciamo così, tra virgolette, ma primo ministro di una repubblica, nero, afroamericano, soprattutto per quanto riguarda il Brasile. Lui è nipote di schiavi, cioè una storia incredibile, quest'uomo che ha iniziato appunto come musicista negli anni 60 in questo movimento rivoluzionario, estetico, musicale, artistico, che si chiama tropicalismo, assieme a altri tipo Caetano Veloso, che noi europei conosciamo forse meglio di Gilberto Gil. E quindi è stato bello scrivere questo libro, perché non è la biografia del musicista e basta, che lascia un po' il tempo che trova, ma è appunto parlare anche di politica, perché lo incontrai quando venne a Roma, questo strano personaggio di 60 e passanni, magrissimo, con le treccine, però vestito perfettamente ai summit mondiali. È stato molto divertente. C'è un verso di una sua canzone o una frase che ti ricordi sua, che non so, ti tatueresti sul braccio? Non so se hai dei tatuaggi o se aborri la cosa, o te la scriveresti per esempio, non so, su una borsa o su una maglietta. Aborro il tatuaggio, casomai quello che va via. Non mi tatuerei niente, nemmeno sulla borsa. Però ora mi viene in mente Achele Abbraccio, che è il titolo di una sua canzone, o praticamente significa un grande abbraccio, che non significa niente, detto così non ha una grande valenza poetica, però all'interno della canzone effettivamente ha un'apertura filantropica meravigliosa, che lui ripete spessissimo e che mi va bene, perché sono anch'io, tendo alla filantropia, anche se ogni tanto sono un po' così, un po' schizzoide. Allora senti, l'ultima volta che hai messo piedi in biblioteca? In biblioteca? Ma in libreria per comprare libri sì. In biblioteca io c'ho il mio migliore amico Michele, che è proprio l'altro ieri sono andata a casa sua a Firenze, e io la chiamo la biblioteca perché è fornitissimo, dunque è la mia biblioteca. La vera ultima volta veramente terribile sono andata all'università a Firenze, ma risalirà veramente a 10. Invece scusa, la biblioteca di Michele a questo punto ci interessa di più? È bellissima, perché secondo me, guardando le librerie delle persone, si capisce tantissimo della personalità, e lui è uno di quelli che divide a seconda degli argomenti, per cui religioni, cucina, americani contemporanei, che so io, poesia, e mi piace molto questa cosa qua. C'è chi, ad esempio, un altro mio amico divide a seconda del momento in cui il libro lui l'ha comprato, perché associa al momento, che ne so, l'ho comprato nell'89, associa a quel momento un periodo della sua vita, allora li divide così. Lo stesso succede per i dischi. Invece scusa, i tuoi libri, perché vediamo e non vediamo, da cui io tra l'altro sono miope, la tua libreria non riesco bene a metterla a fuoco. C'è un criterio o sei scriteriata? No, ho un super criterio anch'io per argomenti molto inventati. Mi dispiace che la mia libreria non sia una libreria all'inglese, di quelle di legno, belle massicce, perché sarebbe il desiderio della mia vita. Purtroppo è una di queste super commerciali, tutta bella di compensato, laccato male. E no, dunque, innanzitutto tutti i libri che parlano di musica in fondo, perché li deploro terribilmente, orrore, sono spesso tirati via, fatti male, non hanno senso, sono un taglia e incolla da internet, terribili. Dunque, i libri musicali, non tutti, libri musicali giù. E poi su anch'io, americani di oggi. Poi c'ho la parte dedicata alla televisione, perché mi piace molto, critica televisiva, eccetera. Poi poesia tantissima, ce l'ho in cima che si veda bene, così che quando arriva qualcuno che mi interessa ad altezza occhio alla la poesia, per capisce che insomma sono un animo poetico, mi deve trattare in un certo modo, ecco. Days, given time we learn to share. I'm not scared, I'm prepared. I'm undressed. And when I go alone. Sweet yourself, I lose myself. But gravity's holding me. To confess, take more, give less. Forget it, forget it, forget it. Anything face what tomorrow is past. You let me drive, but confusion is fast. Radio 2, il libro oggetto con Silvia Boschero in questa sua casa poetica, di una donna che quando si presenta ai suoi amici e ai suoi ospiti deve comunicare, come dice lei, un animo poetico. Quindi scusa, qual è il libricino che fa più presa? Cioè che uno lo guarda e dice, ecco, caspita, se legge questo, allora... Pavese, Emily Dickinson, Pasolini, Poesia in forma di rosa... E soprattutto verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Che paura, mamma mia! E mi piace tantissimo la poesia. Ora mi butterò, ho deciso, su quella in lingua spagnola, perché sto cercando di imparare un po' lo spagnolo e vedo che insomma ci sono delle cose molto interessanti. E poi il futuro è il mio. Senti, invece c'è un libro scritto da musicisti o da una band che ti andrebbe di consigliare? C'è il cantante di una band che andava forte negli anni 90 in massimo volume, Emidio Clementi, che scrive romanzi e io ho solo iniziato il suo secondo e mi sembra molto interessante, ho visto delle critiche meravigliose, però il libro che voglio consigliare assolutamente, scritto da musicisti, si intitola In Mongolia in retromarcia ed è scritto da Massimo Zamboni e Giovanni Lindo Ferretti, ovvero gli ex CCCP, poi diventati CSI. È un libro che parla del loro viaggio in Mongolia e della separazione dei due, di questa band, ma è scritto in maniera molto poetica. Bravi. Invece quest'ultimo di Vasco Brondi, di cui ho letto da qualche parte. bello, nel senso che questo è un ragazzo di 24 anni, ma molte di queste cose che sono state scritte nel libro risalgono probabilmente a diversi anni fa, quando lui scriveva un blog. È uno di questi ragazzi giovani che hanno iniziato buttando pensieri su blog, che poi sono diventate canzoni e che ora ritornano nella forma scritta nel libro. È stato riedito quest'anno da Baldini, Dalla e Castoldi questo libro. Un ragazzo però di un'intelligenza e di una profondità fuori dal comune, insomma, lo si capisce anche dalle canzoni, però una scrittura molto urgente, nel senso che non dà peso alle virgole, i punti e compagnia bella, insomma una scrittura molto da, non dico da SMS, ma sicuramente telematica, da internet. Ma guarda, il titolo mi sembra che in qualche modo faccia riferimento a cosa resterà di questi anni Ottanta, di... No. Ah, era una battuta la sua, però lo dico io? Che cosa faremo di questi cazzo di anni zero, qualcosa del genere? Ma qui c'è un problema proprio immanente, cioè cosa facciamo noi ragazzi di 20 anni di questi anni zero, cioè di questo nuovo secolo, di questo nuovo millennio in cui viviamo senza, non voglio banalizzare, però un po' è vero, senza riferimenti, senza insomma un po' buttati così alla deriva, ma con una grossa sensibilità e intelligenza, insomma mi sembra di capire che non sono i ragazzi che ci fa vedere la televisione questi raccontati da Vasco Brondi. Tell me what you think about the song. Sue me if you reckon it's too long. I wanna know how you really feel. Tell me what you think, this is funny. Spending all my time and my money trying to find how you really feel. The radio's perfect pitch makes me nauseous. Oh, the dimwits that dig in a ditch on my heartbeat radio. Tell me what's the deal with this static. FMS become automatic. I wanna know, did the DJ drown in a sea of reverb and compression? Oh, wait till you hear the refrain on my heartbeat radio. My darling ways can be replaced, but I will remember you. I'd sell my soul for your adore. Still I receiving you. Tell me why you're changing the station. What comes after heavy rotation? I wanna know, am I coming through? I wanna know what I've done to you. You're wearing out my favorite song and everyone else's. My darling ways can't be replaced, but I will remember you. I sold my soul for your adore. Still I'm not receiving you. Tell me what you think about this song. Tell me what you think about this song. Tell me what you think about this song. Tell me what you think about. Tell me what you think about. Tell me what you think about. We laughed and cried, but don't ask why. My poor heart still beats for you. Canzoni che ci hanno cambiato la vita. Ezio Guaitamacchi, editore Rizzoli, È un tomo che ci guarda con intensità, come spessore potrebbe ricordare Moby Dick. Io l'ho portato per Silvia Boschero perché mi piacerebbe che tu aprissi a caso questo libro e vedessi se in effetti una di queste canzoni, veramente vorrei che tu aprissi tre volte. Sì. Apro a caso, davvero? Sì, come un mazzo di carte, in realtà vorrei tre volte, apri, odori e vedi, oh, se, e vedi se c'è qualcosa che esprime. Ho beccato questo piccolo grande amore del mitico Claudione Baglioni, la fece l'anno in cui sono nata, però purtroppo mi ha ossessionato per tutta l'infanzia e anche l'adolescenza, perché mia sorella lo ascoltava a rotazione. Che posso dire? È una bellissima canzone. No, aspetta, trovo un collegamento. È vero che nel tuo caso molto si deve, per quanto riguarda gli esordi radiofonici, ad una maglietta? Mamma mia, quanto sei preparatissima. No, no. È vero, semplicemente perché una volta facendo c'era un concorso radiofonico in una radio locale fiorentina fantastica che si chiama Controradio, regalavano una maglietta dei Pink Floyd se si rispondeva esattamente a una domanda. Io risposi esattamente, andai a prenderla e lì scoprì che insomma c'era bisogno di una voce femminile e mi sono buttata. Vedi che in realtà ha segnato tutto il tuo percorso. Via, altra apertura. Altro, sì, sono, è diviso per decenni, dagli anni 50. Che orrore, un'altra ossessione. Vai. Neck, My Sharona. Siamo alla fine degli anni 70, agghiacciante pezzo che penso i poveri Neck abbiano fatto solo questo, dopodiché sono scomparsi. Però si pronunciano proprio come il cantante Neck, uguale? Sì, però è scritto Knack con la K e la CK finale. E niente, in pieno periodo punk, quando i Sex Pistols e i Clash spaccavano tutto, questi rimbambiti facevano la musica da dance, insomma, praticamente. Però effettivamente funziona ancora. Se tu vai nelle cosiddette rockoteche, cioè dove si balla però il rock vecchio, sì, sì, ogni tanto ti parte mai, no, mai, no, esatto, no, Sharona. A me mi fa paura perché non la sopporto più. No, vediamo se una terza ce n'è. Ah, qui non. Ecco, Antoine Pietre. Bellissimo. Mamma mia. Ecco, questo mi ricordo che mia madre me ne parlava molto bene di Antoine, perché qui siamo in anni 60 proprio. Beh, siamo a un periodo beat. L'Italia viveva il beat, capelloni, però mentre laggiù c'avevano i Beatles, ne scevamo Antoine. Che devo dire? Il testo era molto intenso, però se sei bello ti tirano le pietre, se sei brutto ti diranno le, cioè è una lapidazione. È anche sociale come, sì, testo, è vero, hai ragione, va rivalutato. Scusatemi, non volevo dire una cosa brutta su Antoine. In origine te lo volevo regalare perché ti avrei chiesto un esercizio però difficile, da sibilla cumana musicista eccessivo in effetti, cioè di associare alcune di queste canzoni ad un'atmosfera libresca, però un po' troppo difficile a mio parere, vero? Antoine direi che lo possiamo associare al talismano della felicità, va bene? Sì. E mamma Sharona, che cosa lo associamo? Come si potremmo associarlo, anche se non c'entra niente come il periodo di tempo, a Paura e delirio a Las Vegas? Boh. Il primo che avevi preso invece non mi ricordo più. Quella tua maglietta fina. Ah, sì, ecco, oddio mio, non ce la posso fare. Volevo citare Pier Vittorio Tondelli perché insomma è un altro grandissimo che io adoro, però effettivamente gli farei un vero sgarbo a metterlo insieme a questo piccolo grande amore. No, invece il secondo libro è un omaggio a questo tuo amore per la poesia che non sapevo, però secondo me ti piacerà molto. Jumana Haddad, Il ritorno di Lilith, edizioni L'Asino d'Oro. Lei, se non la conosci già, è una poetessa, scrittrice libanese del 70, e questa creatura Lilith è una creatura mitica che attinge addirittura a dei miti mesopotamici, una specie di donna prima di Eva che in realtà viene espulsa dal paradiso in quanto lo trova noioso, e quindi di fatto Adamo, forse trova noioso lo stesso Adamo, non lo so. È una creatura ribelle, una donna ribelle, rivoluzionaria, secondo me potrebbe musicarla se non ci ha già pensato la Carmen Consoli. Così, forse perché anche noi donne occidentali abbiamo bisogno di attingere a dei nuovi modelli anche di femminilità. Ho sentito dire da questa poetessa che guardando noi donne occidentali, loro orientali si sentono un po' confuse, smarrite, quasi disperate. Per cui questa donna, chissà. Io ti ringrazio tantissimo. Tra l'altro mi interessa moltissimo la letteratura araba femminile. Tanto sulle pagine colorate, ti vuoi far notare, un vero e proprio libro oggetto. Vedi? Che meraviglia! Questo in esposizione alla tua libreria ti accorda una serie di nuove amicizie. Allora, ringraziamo moltissimo Silvia Boschero, un'ottima navigazione con Moby Dick. Grazie naturalmente a tutti voi che ci avete seguito, a Claudio Licoccia che è il curatore e regista del libro oggetto. Voglio ricordarvi che dalla prossima settimana questa trasmissione emigra alla domenica sera, quindi ci risentiamo domenica 29 novembre alle 20. Siamo riascoltabili anche in formato formato podcast sul sito di Radio 2, radio2.rai.it. Ciao a tutti da Lucia Cosmetico. E avevo ancora, senti Boschero, secondo te vale la pena di frequentare i mezzi pubblici se il conducente ascolta a tutto volume prima Have You Ever Seen the Rain e poi La Compagnia nella versione originale di Lucio Battisti? Assolutamente, è meraviglioso. Ti è successo? 30 Express. Alla grande, sì, direi di sì, leggendo un libro. Benissimo, grazie Silvia Boschero, grazie a tutti, ciao.